Wombat. Radio Wombat. Radio Wombat. Radio. Someone still loves you. E buonasera e benvenuti alla 28ª puntata di Fuoco alle Polveri qui su Radio Wombat. Come avete sentito dalla sigla, che in realtà oggi è stato il nostro spot, che è uno spottino, è uno spottino invece della, spottino invece della sigla. Ciao JP. Ciao, com'è che era? Tuco. El Tuco, per favore. Scusa. Ciao El Tuco. Ciao a tutti gli altri che sono qua e che fanno calore qua insieme a noi. Fanno calore peraltro. Sì, calore. Ah, non solo colore. Non solo colore. Non solo colore. Come sentite, c'è anche Omer con noi. Data l'estate, buonasera. Buonasera. Sono qui col mio elicottero. Vero. Non si sentiva meglio prima. Prima si sentiva meglio. La diretta ci frega anche l'effetto elicottero. Data così. Allora, signori e signore. Ovviamente. Dicevamo, ovviamente. Benvenuti alla... Che numero siamo? 28. Ormai non... Come? No, dico, quasi si perde il conto ormai. Quasi si perde il conto. Ma io no. Notte, ma io non sono sempre sul pezzo. 28 come il l'horror fantascienza di 28 giorni dopo. Questa è proprio la peggiore che ti sia mai uscita. Peggiore, in di Danny Boyle. Puntate. Dopo Danny Boyle, il tuo numero di maglia di baseball. Sì, sì, okay. Sì. Danny Boyle, che prima faceva il caldaista, dice. Ah, davvero? Sì. Boyle, e quindi. Grande. Sì, sì. Danny. Okay. Era proprio un nome preso. Faceva il caldaista, ok. Sì. Ok. Ah, per Boyle. Sì, sì. Anche questa era ancora peggio del 28. Cioè, io stavo dicendo, boh, magari. Ragazzi, io cerco di tenervi svegli. È andata così, voi... questo è il caldo. È il caldo. Va bene, va bene. Avrete altre opportunità di cogliere queste si può dire stronzate? Sì, puoi dirlo. Forse sì. Si può dire. Ok, cosa facciamo oggi? Qua? Ma chiacchieriamo tendenzialmente, diciamo, come tutti i lunedì. Io sono tornato dopo... una settimana. Dov'eri? La settimana scorsa sono stato a giro, cazzi miei, dov'ero? Molto bravo. Si può dire cazzi miei? Sì, no, sì, non si può dire dov'ero, okay. Però. No, esatto. E però vi ho sentito in streaming dalla macchina, è stato, tra l'altro si sentiva streaming, molto contento, veramente molto contento. Nei posti dove sono andato ho diffuso il verbo del bombato. Hai attaccato... Mille adesivi del bombato che si iniziano a vedere in tutta la città di Firenze e appunto non solo ormai, perché ci muoviamo anche noi a giro per l'Italia e per il mondo, e quindi niente, sempre viva Radio Wombat. Viva Radio Wombat. Ora dimmi, JP. Non ne abuserei, io dico, cambiamoli, poi non lo so. Non mi convince più questa cosa che ho scelto. Okay. Vabbè, potremmo mandare subito una canzone, che dici? E poi chiacchieriamo un po' e sentite Nico che già freme perché non... Mando un bacino. Anche tu hai saltato una settimana, o sbaglio? Anch'io ho saltato una settimana, quindi, sì, anch'io c'avevo i cazzi miei. E quindi l'amore che trionfa sempre. Che trionfa sempre, ha bisogno di essere espresso. A volte non trionfa mai. Sì, infatti nella mia rubrica a volte mai l'amore. A volte mai, sì, a volte sempre. No. Che detto? Niente, lascia stare. Pezzone, dai. Regia. Wombat. Thank you. Al mio segnale scatenate l'inverno. Eccoci. Ci siamo? Io sì, anche te tesoro. Ma io non mi sento, voi sì, mi sentite? Sì, sì, ci sei, sentiamo, ci sei, non mi stare a preoccupare. E, dicevi che si è fermato il motore in salita? Sì, sì, dicevo che mi si è fermato il motore in salita. Quindi sei tornato indietro? Sono tornato indietro, ho dovuto stamattina... Come immaginavo, capito? A metà salita, tra l'altro, con due SUV dietro, chiaramente, certo. Maledetti SUV, spapà! E quindi piano piano indietro. Al che sono, ho dovuto portare a spinta Torino, sì. Per le mattinate, queste mattinate fresche. Volevo preparare la puntata, invece, e poi dopo sono dovuto tornare indietro a piedi. Ma in tutto mi ciò. Sembra che le rubriche, quelle di studio aperto, le consiglino. Ti ricordi, già presente studio aperto? Ogni certo, il caldo, dovete. Sì, sì. Consigliano di spingere il motorino fino al meccanico e tornare a casa. Poi allora. Dice che aiuta, dice la che salute e la respirazione. Mi sento più snello e più sano, in effetti. Sì, sì, lo sei anche. Sì, sì, no, sì, sì. Poi sono arrivato al biomeccanico, il cicchino un po'. Oh, sono sudato, hai capito? Ho spinto, bomba. Vabbè. Senti, sì. Delano. Delano Roosevelt. Okay. Bene. Ma allora, di cosa ci parli? No, no, di... niente, io in realtà, perché io, appunto, Sandali settimana Coyote, scorsa vi ascoltavo e avete parlato a un certo punto di pirati, che è un argomento certo. Sempre verde. A te da, molto da, caro. Ormai ah, no, volevo dire da, grande da regista che... Senti là cosa ci ha messo io sotto. Infatti, aspettandosi questo intervento. Tra l'altro, hai sentito il versione ho messo io, stanzone... La versione Tamarra. Giustamente, giustamente. Come potresti... No, come in realtà si... no, quello no, perché a un certo punto c'avevo dei buchi, ma era colpa mia. Quello è certo. Bello. Tamarro che c'è in me. E io volevo intervenire, ti mandavo i messaggi, però non funzionava questa comunicazione in diretta. E quindi... E quindi niente, ho visto che avevi consigliato due libri, due saggi la settimana sì. Scorsa, ne volevo consigliare uno io adesso. Tra l'altro quello All'ombra del Jolly Roger me l'avevi consigliato tra tu, quindi vorrei sì. Rendere un... cioè, insomma, no, non è... Non voglio prendermi le... In realtà, appunto, io volevo... Non lo so, andiamo meriti. Oltre. Meriti. Grazie, caro, grazie. Grazie. I meriti, io volevo consigliare a te e a tutti gli altri che hanno voglia di un consiglio. Tutti i nostri ascoltatori, dunque. Sì. Un libro che anche il nostro aiuto regista di oggi penso abbia letto, perché l'ha tenuto nella sua tana per 2 anni, e, che è sempre dello stesso autore del, del libro di cui parlavi la scorsa settimana, L'ombra del Jolly Roger, che è Marcus Rediker, sì, che è uno studioso americano specializzato nella storia della pirateria. Che figata comunque. Sì. Cosa si è specializzato? Nei pirati. Sì, ma è abbastanza una bomba. E si chiama I ribelli dell'Atlantico, la storia perduta di un'utopia libertaria, detto da Feltrinelli. Ah, e parla di Libertalia, quindi? No. No. Parla di... Riassumiamo un attimo, scusami. Dimmi. Cosa abbiamo detto, cosa ho detto io dei sui pirati settimana scorsa. Perfetto. Ho raccontato di questa esperienza a metà fra la realtà e il mito, comunque che ha dei riferimenti reali, quindi comunque c'è stato, sì, qualcosa. Questa Repubblica di Libertalia, che era composta tendenzialmente da pirati, che avevano creato in un'isoletta di Saint Mary, che è accanto al Madagascar, crearono a cavallo fra il 600 e il 700, insomma nel 700, che poi è la grande epoca dei pirati, sì, e è anche la grande epoca degli assolutismi, no? Certo. Avevano creato una repubblica indipendente, democratica, con una democrazia anche diretta proprio, e poi chiaramente fondata da, appunto, era un pirata, un soldato francese, un della marina francese e un prete italiano. Ok. E niente, quindi prete, c'era tutta questo ragionamento. La presenza del prete. Ma il prete fondamentale. Se ti vai a vedere le cose, Caracciolo si chiamava. Sono dappertutto. Preti italiani, problema, sono perché? In tutte le storie ovunque. Tutti i tempi. I missionari, appunto, cattolici italiani, poi li ritrovi in tutte le storie delle, ma ovunque, perché erano comunque sempre a seguito, anche perché spesso le venivano sponsorizzati proprio, certo, anche dalla chiesa stessa, comunque rientrava all'interno delle sponsorizzazioni, certo, di queste grandi esplorazioni nel mondo, e c'erano sempre i preti, sì, insieme, e poi comunque erano le grandi monarchie europee cattoliche che facevano, no? Cioè, a partire, sì, dai portoghesi, con Cristoforo Colombo, eccetera eccetera. Dunque, quindi questo è il riassunto, e okay, poi mi ero collegato a questi saggi proprio per parlare dei pirati come transfert di idee e anche rivoluzionare attraverso il mondo per, okay, il loro peregrinare e razziare. Bene. Bene, quindi, a questo punto lì, in quel momento io ti ascoltavo, mi erano venute in mente due cose che volevo dire. Una era appunto sul Madagascar, sui pirati nel Madagascar. Ci sono, ritorno indietro, questo non è un saggio, volevo consigliare un saggio e un romanzo. Bravo. Il romanzo si chiama La vera storia del pirata Long John Silver. Ah. E è il... dall'Isola del Tesoro, il nostro autore, che adesso vi dico il nome tra un minuto. Steven, sì, di Stevenson, L'isola del tesoro. L'autore è uno svedese, adesso non mi sfugge il nome. Ah, già, me l'ha detta, sono bellissima. Che si inventa la cosa succede a Long John Silver dopo la fine dell'isola del tesoro. Fine dell'isola del, quindi, tesoro, Long John Silver sparisce con una parte del bottino dell'isola del tesoro. E questo nostro autore, a noi contemporaneo, un autore vivente, svedese, si immagina di ritrovarlo 20 anni dopo in Madagascar, dove ha partecipato ad esperienze di autogoverno dell'isola, da capo anche, comunque, che racconta le memorie di tutta la sua vita, e quindi ricostruisce tutta la storia del pirata Long John Silver all'interno appunto della mitologia pirata iniziata e da Stevenson, Defoe e da altri autori dell'Ottocento. Defoe, per esempio, che scrive 3 libri. Sì, sì, l'ho citato, Defoe. Esatto, alcuni provando a fare la General History of Pirates. Quella lì che ho pronunciato male, che ma però che è un non si sa se è a metà tra appunto una totale invenzione, sì, Defoe, sì, sì, che, sì, mette dentro anche elementi storici. Si è divertito molto Defoe ai suoi tempi a inventarsi storie sui pirati. L'altro libro è appunto questo Ribelli Atlantico di Marcus Rediker e Lynn Bauch, che è un altro autore molto più giovane, tra l'altro, di lui, penso sia il suo assistente. E parla non propriamente dei pirati, ma parla di tutte le rivolte avvenute nell'ambito atlantico, quindi tra l'Europa, l'America del Nord, l'America Latina e l'Africa, quindi in questo quadrilatero, diciamo, di mondo, tutte le rivolte avvenute all'interno delle navi, o dei porti, o delle città portuali anche, ok? Collegandole tutte a una metafora, quella di Ercole e le teste dell'Idra. Ercole, preso a mito in epoca classica come un precursore dell'economia capitalista, cioè Ercole, appunto, che va a governare il mondo, che è governato fino a quel momento dal caos, va a governare il mondo, e l'idra dalle tante teste, che tutte le volte a cui Ercole taglia una testa ne crescono due, altrettante. Esatto. E invece appunto l'idra collegata, come sempre metaforicamente, alle rivolte, quindi ogni volta che una rivolta veniva sedata ne nascevano due, finché la rivolta non veniva totalmente cauterizzata. Ho sbagliato forse non è però. Sbagliato okay. Col fuoco, e alla fine poi come fa Ercole a sconfiggere l'idra, e l'autore la collega appunto ai pirati e ai rivoltosi, che dai porti iniziavano appunto le loro rivolte, che vanno poi bruciati vivi. Molto interessante, è un libro molto veramente bello. Molto interessante. Magari fa questa panoramica, c'è molto di fantasia, nel senso di nemmeno di, un come H dice. Ah, ok. Non è un H, è un libro di uno storico. È una metafora, okay, questa, no? La metafora è quella di Ercole e la testa di l'idra. Okay. Però le rivolte sono tutte reali, documentate, eccetera, eccetera. Molto interessante. No, io non voglio leggere. È molto bello. Senti, una domanda. Dimmi tutto. Ma Black Sails, cioè, dove è ambientato? Black Sails, verosimilmente, diciamo a questo punto che è una serie televisiva. Una serie, si può dire, sì, dai. Certo, si può dire. Una serie televisiva americana. Tu hai seguito con passione. Io purtroppo no. È ambientata nei mari dei Caraibi, tendenzialmente. I Caraibi, ok. Quindi quell'ambito lì, sì, geografico. Tra Nassau, Cuba. Okay. Yeah. No, perché mi era venuto il dubbio che ripercorresse forse anche un po' questa cosa di libertà, perché non c'era quell'isola. C'è a un certo punto, sì, c'è l'isola degli schiavi, che è l'isola autogestita, ma tra virgolette, dagli schiavi. Cosa fuoriesce da quella serie? Cioè, i pirati come ne escono? Sì, come i grandi ribelli che combattono contro l'impero britannico, fondamentalmente. Ok. Okay. E che anche perseguono i loro obiettivi personali. Personale, di godura personale, certo. Senti, va bene. Bando alle ciance. Ciancio alle bande, scusa. Io bandana, direi subito che è il momento di Nico, che è qui, che ciao, appunto freme da giorni. Ormai è chiuso qua dentro. Che è arrivato, ecco l'elicottero di Nico che è a terra. Attenzione. Eccomi, arrivo. Sentite le pale che frusciano. Ecco. Molto bene, eccolo, è arrivato. Abbiamo spento l'elicottero. Ma te stai parlando di Wilson? Wilson. Ciao Wilson. Pickett. Wilson, ciao, Pickett. Wilson Pickett. Poi Wilson dovremmo Pickett decidere delle cose. Vabbè, dici Wilson. Non lo so che cosa vi devo dire. Ma forse dovrai. Io non certo, riesco, grazie regia. Dovevo dire una parola sola. Sigla. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? Dubbi e sicure. Che meraviglia. A dici Milaus. Ascoltiamo. Pezzone, tra l'altro, ragazzi, questo qui che stiamo per sentire. Vabbè, nel frattempo chiacchiero, tanto canta dopo un pochino. Al solito, la storia d'amore di oggi è la solita di sempre. Sempre lontananza, si è lontani, non ci si riesce a raggiungere. Non partir, tu sei chiusa nel mio cuore, lo sento. La persona che sentiamo qui sotto è il grande Rabagliati, è stato una voce radiofonica dell'Italia dagli anni 30, dagli anni 40 più o meno in poi, importantissimo. Ricomparirà in questa puntata, ma non vi dico quando, spunterà come un funghetto. Bella. Allora, la prima canzone di oggi è una canzone di Michele Sommegna. Chi è Michele Sommegna? Al secolo, cioè in arte, Nicola di Bari. Nicola di Bari. Tutte e due le canzoni che sentiamo oggi, tutti e due pezzi di cuore, ragazzi, sono pezzi che noi conosciamo già, che voi conoscerete già, e conoscete già, vi dico anche perché li ha fatti entrambi, li ha coverizzati entrambi quel pelato che si chiama Giuliano Palma. Io sono un fan. Perfetto, allora conoscerai entrambe le canzoni che sentiamo oggi. Pensa a te. E anzi, sarà d'aiuto a te per scoprire da dove è andato a pescare, da quale sacco di grano è andato a pescare le sue belle cover, questo olo pecico. Insomma, il pezzo di oggi, Nicola di Bari, passato uno dei grandi, come si disse l'altra volta quando sentimo Gianni Dorelli, Nicola di Bari fa parte dei quattro grandi che sono riusciti a vincere due edizioni di Sanremo una dopo l'altra, e cioè Modugno, cioè due edizioni consecutive, sì. Modugno, Dorelli, che era sempre in coppia con Modugno, certo. Nilla Pizzi, un giorno ne chiacchiereremo, e il grande Nicola. Insomma, ho letto una serie di aneddoti simpaticissimi sulla storia di Nicola di Bari, su questo tale Michele Sommegna, di un paese che si chiama Zapponeta, in provincia di Manfredonia, quindi pugliese. Praticamente niente, vabbè, vi racconto. Cioè, la cosa più simpatica è come ha deciso di diventare un cantante. Il 29 settembre di chissà quale anno, ma penso che sia intorno agli anni 50. Sai il giorno e non sai l'anno. Sì, ho letto questa intervista. Lui dice il 29 settembre di quando facevo il liceo. Ah, se lo ricordo. Va bene. Evidentemente il 29 settembre, poi è quella canzone importante oggi, 29 settembre, dell'Equipe, dell'Equipe 50. Seduto in quel caffè, 50, io non pensavo. Bravissimo, quella lì. Vabbè, insomma, il 29 settembre a quanto pare è la festa del patrono di Zapponeta. E il giovane Nicola di Bari con i suoi amici andava in questa festa del patrono. Tutti quanti che vendevano le... Certo. Big festa. Sì, le cose, no? I lupini, queste cose qui, certo. C'era un vecchietto che vendeva i gelati a quanto pare. Particolarmente triste, in silenzio, questo Nicola di Bari gli si avvicina perché lo vede particolarmente mogio questo vecchietto, il quale gli dice: guarda, io sono triste perché non ho abbastanza voce, non riesco a chiamare la gente nel mio banchino dei gelati e quindi non vendo un cazzo. E davanti a lui invece c'è un altro gelataio. Sì. Così allora questo Nicola prende un megafono e si mette a strillare: gelati, gelati, migliori delle Puglie, venite a mangiare i gelati, per fare un'opera caritatevole verso questo vecchietto. Gli amici di Nicola gli vanno da lui e gli dicono: senti, ma perché non ti metti a cantare? Tu quando stiamo a ricreazione al liceo canti sempre, mettiti a cantare. Prende la chitarra, si mette a cantare, la gente arriva e questo banchino dei gelati finisce tutti i gelati perché lui è bravissimo. La gente gli continua a dire: canta, canta, facci cantare, anche quando oramai i gelati erano finiti. Torna a casa e decide di fare il cantante, insomma, cosa che non aveva mai calcolato prima. Forte! Si trasferisce a Milano, viene notato da un tale Walter Guelter, non so come si dice perché ha un nesso consonantico veramente complesso in mezzo al nome, è preso alla Jolly, che era una casa discografica, appunto, un'etichetta di questo Walter Guelter. Dal 60 in poi, e cioè dal 1960 proprio, entra nella Jolly, inizia a fare la sua carriera andando tantissimo sia a Canzonissima e per una canzone per l'estate, i vari festival che c'erano negli anni 60 in Italia. Va spesso a Sanremo, dal 60 in poi va tipo 5 volte di fila consecutivamente, però arriva sempre secondo, terzo, è bravo, un successo discreto, però nulla di spettacolare. Gli arriva, cioè anzi, i successi più importanti gli arrivano con delle cover, per esempio con cover di pezzi inglesi. Una cover che gli dà molto successo è "Se mai ti parlassero di me", che in realtà è una cover di "Smile", che è un pezzo di Charlie Chaplin, in Luci della Ribalta. L'ho visto. C'è questa canzone, ma non te la so canticchiare perché mi confondo con "na na na na na na", che però non c'entra niente. Vabbè, insomma, fa "Il mondo è grigio, il mondo è blu", che è un'altra cover che viene citata da Battiato, se conoscete. Insomma, il vero successone gli arriva nel 70, quando Gianni Morandi doveva portare al Festival di Sanremo, appunto, del 70 del 71, scusatemi, del 71, la prima, no, del 70, la prima cosa bella, che era una canzone testo di Mogol e musica di Nicola di Bari. Quella famosissima. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Gianni Morandi all'ultimo dice alla RCA, che era appunto l'etichetta radiofonica, quella che gestiva la grande major che gestiva i cantanti italiani, si ritira e dice che non vuole andare a Sanremo quell'anno, non so Gianni Morandi che problemi ci aveva, sì. E quindi la RCA ci piazza Nicola di Bari, che aveva scritto la canzone, giustamente, in coppia con "I ricchi e poveri". La canzone arriva seconda, però comunque incredibile successo per questa canzone, prima in classifica per tantissimo tempo. L'anno dopo Nicola andrà e vincerà, e l'anno dopo ancora rivincerà di nuovo. La cosa divertente che ho letto prima di dirvi la sua vittoria del 71 è che praticamente lui ha scritto questa canzone, la prima cosa bella, quando gli è nato il primo figlio. E in un'intervista ha detto: per me è stato un momento indimenticabile, sono stato molto felice e la cosa che mi rende più felicità è pensare a quanti bambini ha fatto nascere questa canzone, che è una grande canzone d'amore. Evidentemente tanti si sono insieme alla panda uniti, insomma, insieme alla panda, sì. Nicola di Bari e la panda, una accoppiata violenta negli anni 70. Insomma, nel 71, in coppia con Nada, sua cara amica tra l'altro, portano "Il cuore è uno zingaro", ed è il pezzo che sentiamo adesso. Ve lo

spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. Quelli erano quelli grandi. La lontananza, sai. Insomma, il nostro, mentre il nostro cuore zingaro vaga e allontana appunto gli amanti, arriviamo a questo secondo pezzo. Questo secondo pezzo di un personaggio che tra l'altro mi ha fatto scoprire la sua canzone. Cioè un personaggio che non conoscevo, tale Peppino Gagliardi, che comunque è stato abbastanza important nella canzone italiana, appunto, sempre degli anni 70. Coeve le canzoni, infatti, di sonorità, diciamo, sono molto vicine. Questo Peppino Gagliardi che andiamo a sentire oggi, napoletano, un cantautore molto particolare, canzoni molto, diciamo, colte sia da un punto di vista musicale sia testuale, un outsider delle major, un outsider del grande mercato italiano televisivo radiofonico, però comunque che ha avuto i suoi bei momenti di successo, soprattutto particolarmente ha avuto successo nei momenti in cui si è lasciato alle spalle le vecchie etichette discografiche. Cioè lui aveva firmato per la Jolly, lasciata la Jolly, ha scritto due pezzoni incredibili da solo, con un'etichetta indipendente fondata da Aurelio Fierro, grande cantante napoletano, che si chiamava La King, mi pare nel 70 appunto. Prima era anche con la RCA, figuriamoci, sempre questo Peppino Gagliardi. Lasciata la RCA e messo con questa piccola etichetta indipendente, ha iniziato veramente a fare il boom e quindi l'ha messa in quel posto, diciamo, al grande mercato lobbistico, bravo, delle etichette. Un grande. Poi tra l'altro un tipo molto interessante, ha avuto come obiettivo della vita quello di musicare, fare un'opera un po' enciclopedica, antologica, come quella che aveva fatto Murolo, di cui parlammo l'altro tempo, sempre della musica napoletana. Lui appunto napoletano, scriveva da piccolo, cioè da sempre ha scritto pezzi insieme al... lui scriveva la musica, i testi glieli scriveva questo tale Gaetano Amendola. Insieme hanno avuto questa collaborazione molto prolifica e molto felice, diciamo, in generale. Lui è autore di quella canzone, fa "Che vuole questa musica stasera?" No. L'abbiamo sentita in questa rubrica. Annuiamo. Allora dico sì. Beh, bravo. Insomma, è inutile parlarne più di tanto, andatevelo a cercare, è un grande Peppino Gagliardi, ragazzi. Nella storia d'amore che andiamo a raccontare adesso, questa canzone apre un piccolo spiraglio di speranza, lo spiraglio di speranza del ritorno dopo la lontananza. Vai a sapere quando, se si ritornerà. E comunque, come Il mio cuore è uno zingaro, coverizzata da quella Lopecico di cui si parlava prima, anche questa qui, ancora più nota nella cover, forse più nota nella cover di Giuliano Palma che nella versione del grande Peppinone, che in realtà è molto bella e poi ha anche dei bei ritmi gasanti, molto divertente, sì. Come le viole, sentiamoci. Ah, sì. Ambaratela. Sì. Avanti. Sono tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai, avevi la mia vita tra le tue braccia. Sei andata non so, te ne sei andata con chi dai sogni miei. Forse domani chissà tu piangerai, quando il mio amore lo so tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Quanta dolcezza. Un sacco. Quanta? A palate. A pacchi proprio, a pacchi. Incredibile. Insomma ragazzi, io direi, ora che si è finito questo percorso, questo amore, volevo aprire una piccola parentesi, una parentesi sulla cosa che più c'entra con la mia rubrica del cazzo, insomma, ed è la musica. Il primo signorino che abbiamo sentito oggi cantare, il grande Rabagliati, vi racconto questo piccolo simpatico aneddoto. Rabagliati è stato appunto il più grande, una delle più grandi voci radiofoniche finché c'era solamente la radio, l'EIAR proprio, l'ente italiano radiofonico, non so come continua l'acronimo, insomma. Dagli anni 40 in poi, è morto nel 74, ma è stato veramente importantissimo. Aveva fatto i provini, era entrato nell'orchestra Cetra dell'EIAR, era una delle più importanti voci, fino a che poi non gli diedero un programma radiofonico tutto per sé che si chiamava Canta Rabagliati. Rabagliati, che era stato in America a lavorare da giovane, era rivenuto in Italia, era uno di quei tanti come Natalino Otto, come Carosone, che abbiamo già sentito, che portavano quei ritmi un po' swing, un po' jazz, un po' americani, insomma, molto, molto poco nostri. Ma era così importante che durante il fascismo non gli potettero togliere il suo programma radiofonico. Mussolini si impegnò personalmente per far sì che gli fosse tolta questa cosa, ma gli venne detto, insomma, niente, non si può fare. C'è questo simpatico aneddoto in cui, non so, l'ho letto su un articolo, mi pare, della Repubblica, in cui Mussolini incontrò, cioè tornò a casa una volta e c'era la Petacci, una delle sue signore, certo, che ascoltava un pezzo di Rabagliati, e lui prese questo CD, lo spaccò a terra e disse: ma questo qui non era stato in America? E ci torni, noi non ce l'abbiamo un cazzo di bisogno di questa gente qui. La canzone che sentiamo adesso si chiama La scuola del ritmo, ed è una canzone di un divertimento incredibile che si sposa perfettamente con l'estate e si sposa. Ma quindi questo teoricamente sarebbe il terzo pezzo. Questo è il terzo pezzo, che solitamente dovrebbe essere il grande pezzo della contemporaneità. Però ragazzi, però oggi siamo cosa più di contemporaneo di questo? Sentitelo, è veramente meraviglioso, una cosa molto divertente. Assolutamente. Sì. Dai, sì, salvato proprio. No, ha sgommato. Un bacio, vi saluto da qui direttamente. Ciao, viva Wilson. Le polveri e viva Radio Wombattona. E alla prossima. Ciao. la scuola del ritmo dove si impara a cantare. Prego un po' d'attenzione alla lezione. Mi sol si, mi do si, mi si la, sol si la fare si mi. Ma che bravo, bravissimo, troppo. Tutti attenti al rigo musical, con le note non si può sbagliare. Basta fare un poco d'attenzione, solfeggiando do re mi fa sol si do. Se durante queste mie lezioni a qualcuno viene ispirazione, tutti quanti insieme canteremo, il motivo originale impareremo. Qui si viene solo per studiare ritmo, ed ognuno deve saper fare il ritmo. Chi promosso un giorno poi sarà, alla scuola più non tornerà, e alla radio certo canterà tutte le canzoni con vivacità. Polvere, polvere, polvere, polvere di stelle, cantami, cantami, cantami, cantami tu, bimba. Ogni nota è fatta per ritmare. Piccola, piccola, canta questo ritmo swing time. Mi, sol, si, mi, do, si, mi, si, la, sol, si, la, fare, si. Ma che progressi! Benissimo! Che bravo! Ah, ma che bravo che è! Cia cia! Cia cia! Sì, sì, sì, sì, sì, sì! Dubbi e sicure! Rieccoci qua. Sì. Fuoco alle polveri qui su Radio Wombat. Bravo. Buon pomeriggio a tutti, ridiciamolo. Bravo, sì. Calura infernale. E due pezzi di cuore, che sta diventando tre pezzi di cuore, quindi sì, prima o poi cambieremo anche la sigla. Sì. Penso. E, senti, no, volevo fare una precisazione, perché prima ho detto una cosa... Cioè, ho detto il libro, ho detto non mi ricordo. Ah, ora vi dico una cosa ganza e poi... No, Bjørn Larsson è l'autore del libro che vi dicevo. Bjørn. Sì, Bjørn Larsson, un simpatico svedese. Ma c'è una storia pazzesca dietro la scrittura del libro, no? C'è una storia pazzesca, nel senso che lui si è scritto questo libro sui pirati, immaginandosi la vita dei pirati. È un grande appassionato di barche, di navigazione, quindi si è preso la sua barca e si è fatto il giro che pensava si facessero i pirati al tempo, e ha scritto il libro in 2 anni di navigazione, cioè, per i mari dell'Oceano Atlantico. Cioè, pazzesco. È abbastanza una figata. È un bel lavoro alla fine, ha scritto. E non ha incontrato i pirati? No, alla fine no. No, doveva andare in Somalia. Sarebbe stato male a trovare i pirati somali e lo acchiappavano. Immagini. Mitra. E i nostri marò? Già. Forse anche marò già, da qualche parte. Ma comunque, dicevo, ma l'ultimo pezzo che ha mandato Wilson è un po' anche come la canzone mononota. A me mi ha fatto venire in mente il caro Elio, le storie tese. Bene, questa precisazione sui pirati doverosa. Spero che questo filone piratesco continui. Sì, ma facciamolo continuare. Per me si può continuare praticamente all'infinito. Sì, sì, sì, sì. Ma io piuttosto volevo sapere, ma questo argomento è uscito fuori perché sta per uscire il nuovo film dei Pirati dei Caraibi? No, è già uscito. Mi auguro veramente è di già no. Uscito. Non lo so, io se lo sentite no, già. Stiamo no, parlando no, di questo su no, Radio Wombat no, perché no, è uscito no, il nuovo no, film con no, Gianni no, devo ridirlo? No. No. Okay, no, l'ho tirato io nel mezzo perché avevo letto un articolo. Siamo su... sicuri che non è per questo? Siamo sicuri. Perfetto. Avevo letto un articolo su Libertalia e tra l'altro vorrei dire che ho scoperto, vi dicevo già in diretta settimana scorsa, che avevo visto da un link che anche una radio, insomma, commerciale ne aveva parlato. esattamente. Ci ha copiato. Sì, esattamente. No, non si può fare la sonda. No, l'ha fatto prima di noi, quindi casomai lei. Quereliamoli. Nel dubbio, quereliamoli. Hanno fatto esattamente la stessa cosa. A noi non ci possono portare via nulla, a loro tutto. Tutto. Perché è anche una radio di Stato, tra l'altro. Vabbè, non volevo dirlo. No, è la Rai, cioè nel senso è la Rai, cioè, sì, è la Rai. Che parla, che ci ha rubato le idee. Vabbè, salutiamo tutti calorosamente. Allora, di cosa parliamo ora? Parliamo di ciò che succede il 15-18 giugno, quindi veramente a breve, in Val di Susa. Sì. In quel di Val di Susa, dove abbiamo fatto una fantastica diretta quando c'è stata la grande manifestazione. Sì, l'ultima Val di Susa, meravigliosa. Tra l'altro potete trovare i podcast di tutta la diretta e delle singole interviste. Sì. E le cose che sono successe con i nostri inviati, molto interessanti e preparati, sul sito, sì. Dove siete già ora, perché se ci ascoltate. Esatto, però non chiudete, diretta, aprite una nuova finestra, cioè, sì. Esatto, destro, bravo. Apri altro link sull'altra pagina. Cosa succede adesso? Cosa? Cioè, no, Luck Meeting. Luck Meeting, non l'ho detto? No. Scusate, perdonatemi. Luck Meeting, esattamente. Allora, se vogliamo possiamo leggere queste tre righe che sono la presentazione Luck Meeting. Forse l'abbiamo già lette. Ce sì. l'ha il nostro aiuto regista. E che ci leggerà? Ecco. Vai, carissimo. Comunicato di Luck Meeting del 10 giugno, quindi molto recente. Non ho le cuffie, quindi andrò un po' a braccio. Vai, per parlare. Benissimo. Sì, sì, tranquillo. Leggiamolo. Le schiavitù volontarie della rete, che consumano ogni giorno un pezzo di più della nostra libertà, attraverso i social, le app, GPS, servizi Google, e l'impiego degli strumenti che consentono di sottrarsi al grande fratello universale. Questa è la linea del fronte intorno alla quale si sviluppa l'Hack Meeting, il raduno annuale di hacker che giunge nel 2017 alla sua 20ª edizione, quindi buono, e che si terrà quest'anno a Venhouse, in Val Susa, dal 15 al 18 giugno. 4 giorni di seminari, giochi, feste, dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo per analizzare assieme le tecnologie che utilizziamo quotidianamente, come cambiano e che stravolgimenti inducono sulle nostre vite reali e virtuali. Un festival dell'insegnamento reciproco, dello scambio gratuito e libero tra stampanti 3D, circuiti elettrici, videoproiettori, trasmettitori radio, schemi sulla vulnerabilità della rete e chiacchiere sulla sovranità tecnologica. Un evento che in 20 anni ha attraversato tutta l'Italia, Palermo, Roma, Milano, Parma, sono solo alcune delle città toccate, e che quest'anno sbarca a Venhouse, comune valsusino, simbolo della lotta NoTav, con cui condivide le contestazioni delle impostazioni che arrivano dalle autorità centrali sulle comunità locali. Obiettivo: riportare la tecnologia sotto il controllo delle persone, in un mondo in cui sta succedendo il contrario. La rete, spiega Zeus, il portavoce virtuale dell'Hack Meeting, è diventato un immenso strumento di controllo e di consumo. Grandi multinazionali che possono ricostruire ogni tuo spostamento minuto per minuto degli ultimi 3 anni, datori di lavoro che possono rintracciarti in ogni momento e a cui devi rendere conto del tuo tempo, comunicazione di lavoro a cui rispondere a ogni ora del giorno e della notte, pubblicità ritagliata sul tuo profilo personale che cataloga e pesa ogni dettaglio delle tue abitudini, dei tuoi interessi e delle tue simpatie. Una tendenza esplosa con l'arrivo dei social, un'enorme gabbia nella quale tutti guardano tutti, in cui ciascuno è spinto a cercare l'empatia e il favore del prossimo impacchettando la propria giornata in pillole vendibili, in un automarketing sociale e continuo, che ha creato un contesto generale in cui la verità ha lasciato il posto al consenso e la lapidazione è diventata una pratica continua. E l'unica cosa di cui si preoccupa la politica è l'accusa, è favorire e sopportare la corsa dei ragazzi al grande sogno californiano, trovare l'app, l'idea geniale che ti mette a posto per la vita facendo diventare il prossimo Zuckerberg. Una specie di lotteria come i talenti in TV, in cui chi partecipa spera di essere notato e di essere attratto, estratto al mazzo. Perciò l'Hack Meeting, sottolinea, è una realtà indispensabile oggi, perché ci aiuta a vedere cosa c'è dietro questa realtà dell'iperconsumo e superconnesso, come funziona la tecnologia e come la si governa. Lo fa senza professori, né fiere, ma con la condivisione dei saperi e ridando importanza al gratuito. Insomma, nel suo essere un misto tra un campeggio, una conferenza, un dibattito permanente e una festa, l'Hack Meeting permette di rallentare per vedere le cose con gli occhi di chi siede in seconda classe, non ha fretta e fa amicizia con gli altri passeggeri. Durante 4 giorni dell'Hack Meeting ci saranno appuntamenti molto diversi, seminari e dibattiti, certo, con un percorso di base per gli smanettoni e le prime armi, ma anche una passeggiata al cantiere della TAV, sessione di sperimentazione collettiva e cucina autogestita. I partecipanti campeggeranno in tenda al presidio di Venaus, ma per i più piccoli è previsto uno spazio dedicato con attività organizzate da un gruppo di genitori appassionati di tecnologia. Fine comunicato. E spiega abbastanza bene. Siamo rotti, eccoci, siamo tornati. Se non ci potete andare, cavoli vostri, perché è veramente una figata. Noi abbiamo i nostri inviati, nel senso che Radio Wombat parteciperà all'Hack Meeting attivamente e diversi nostri inviati ci riporteranno contenuti, esperienza e ci racconteranno poi dalla prossima settimana quello che sta per succedere in Val di Susa nei prossimi giorni. Poi tu in prima persona, no, Washington? Io sono Washington? Sì. Sì, io in prima persona. Ammiraglio Washington. Ammiraglio. Bene. No, allora vorrei sottolineare, cioè, a parte gran comunicato, cioè, che spiega veramente, cioè, non è che l'hack feeling, cioè, questa questione del l'hack meeting, scusate, poi, perché volevo dire anche dell'hack feeling, chiaramente, non è che spinge alla paranoia, ma piuttosto alla consapevolezza, no? Esatto, cioè, il loro obiettivo è dare consapevolezza degli strumenti che usi, che ormai usano tutti involontariamente o involontariamente, e la loro questione centrale è proprio questa, cioè ridare coscienza di quello che si usa, di come si usa e a cosa ti esponi usando, e la condivisione, e la condivisione, sì. Quella è lo spirito, è la base. Vero hacker, insomma, sì, esatto. Cioè, anche se qualcuno non ha mai usato un computer in vita sua può partecipare, anzi, è invitato. È invitato, e infatti, che poi è poi anche il costruirsi da sé, l'auto, no, costruzione. Sì. Mi ricollegavo a questo, tu hai seguito molto questa cosa del luck feeling, appunto, in polveriera. Ah, sì, nella è stato fatto appunto questi quattro incontri che parlavano proprio di dell'hacker, del mondo hacker, del, come si dice, del mondo hacker. Del mondo hacker. E l'attitudine hacker, ecco, l'attitudine hacker. E in uno di questi incontri hanno fatto vedere, ti ricordi, abbiamo visto, c'ero anch'io, abbiamo visto i vecchi sì, tutti i documenti video, esatto, era fighissimo, dal 98 a ora, e poi fino adesso sono stati fatti in posti occupati molto spesso, sì, sempre. Esatto, sempre. Mentre a questo giro non è un posto occupato, perché il sindaco di Venaus è dalla nostra parte, tutta la popolazione di Venaus, ovviamente è uno dei comuni notav per antonomasia, perché sono all'imbocco della Val Susa, uno di quelli hanno avuto più danni dalla TAV, quindi insomma, certo. È ovvio. E hanno dato sì l'appoggio, cioè dentro un palazzetto dello sport, a quanto capivo, insomma è una situazione anche molto tranquilla, anche con la popolazione c'è molto mutuo aiuto, insomma sarà una figata. E quindi in quei filmati si vedeva proprio questi fili andavano ovunque, dove la gente costruiva anche oggetti per fare musica, per creare una radio, per creare il tutto. Sì. E appunto mi collego alla radio, perché ci sarà proprio, appunto, noi mandiamo proprio gente di Radio Wombat che parlerà proprio anche dell'esperienza di Radio Wombat. Questi seminari che dicevo, Radio Wombat e Radio Seminari, esatto, per raccontare quello che sta succedendo, insomma, anche qui da noi e in altre, con le altre radio autogestite italiane, insomma, con cui chiaramente siamo in contatto e sì, per il programma, esatto, poi per il programma, che ancora è molto snello, perché viene molta parte del programma dell'Hack Meeting vengono decisi il primo giorno lì per lì, in base a chi c'è, alle presenze, agli esterni anche, quindi anche l'anno scorso, insomma, c'erano esperimenti di scrittura collettiva, c'era un sacco di roba che apparentemente uno dice che cosa c'entra con la tecnologia e queste cose qua, in realtà c'entrano tutti, cioè bravo, è tutto un gran ciclo di cose che si incastrano benissimo fra di loro, perché l'attitudine hacking non è per forza collegata solo e soltanto a internet, se uno ci pensa, no, al computer, ma anzi assolutamente è più un'attitudine anche di vita e di approccio al mondo. E materiali che c'era nel filmato, sempre mi ricollego alla ti ricordi meglio le cose te di me, però. Dello sketch che hanno fatto ai giornalisti, che gli fecero vedere come si chiamava, era quella tombolone, cosa levava internet, che si ciucciava, che assorbiva internet nell'aria, esatto, qui diceva questo giornalista e faceva la diretta, servizio andavo sulla 7, tipo una roba del genere. Il nettarello, misuravi la quantità di internet nell'aria e avevano gettato in confusione una giornalista, che era un non mi ricordo sì, la 7 che era andata lì a intervistare, le hanno detto guardi, questo è per misurare l'internet nell'aria, l'internet, ho capito, quindi da questo si vede l'internet, sì, che poi era un pezzo di cartone con una stanghetta e saliva e scendeva, sì, cioè una presa di culo palese, bomba, poraccia quella lì, l'hanno massacrata, va bene, gabbata. E ok, quindi diciamo le date, 15 18 quindi è da giovedì a domenica. E Venhouse, Val di Susa. Campeggio gratuito, cibo, incontri, seminari, un sacco di robe, un sacco di gente assurda, divertentissima. Una figata. E niente, vabbè, per il programma completo le indicazioni hackmeeting.org. Sì, sì, sì. Hackit 2017, che è l'elezione quest'anno. Molto bene. Direi che è il momento di Telesimba. Cuffia. Sì, Telesimba, abbiamo chiamato la nuova grande rubrica della Radio Nuova Bomba. Rubrica Telesimba. E viva. Sigla. Simba. Ciao. Salve. Ciao Simba. Ciao ragazzi. Qui parla Simba. Oggi ho portato Vladimir Majakovskij. Buono. Il caro Majakovskij, che è uno dei miei poeti preferiti ed è una delle voci poetiche più belle della Russia dei primi del Novecento. Considerato il poeta della rivoluzione, fu interprete della cultura russa post-rivoluzionaria. Majakovskij aderisce al cubo futurismo russo e firma il manifesto Schiaffo al gusto del pubblico, attraverso il quale dichiara di volersi distaccare dalle formule poetiche del passato per intraprendere una rivoluzione sintattica e lessicale all'insegna della massima libertà. Nel 1915 pubblica La nuvola in calzoni e Flauto di vertebre, che sono due poesie per me meravigliose che vorrei portare anche la prossima volta, ma sono molto lunghe, quindi oggi poi leggerò una poesia per introdurlo. Decide di mettere il proprio talento artistico al servizio della rivoluzione bolscevica, affermando il bisogno di una propaganda della rivoluzione stessa tramite la poesia. Nelle fabbriche organizza letture diverse e dibattiti, favorendo la formazione di gruppi comunisti futuristi nei quartieri operai. Molti dei suoi tentativi, tuttavia, sono stati osteggiati dal governo. È stato anche un drammaturgo e purtroppo muore suicida nel 1930, sparandosi un colpo di pistola al cuore. Un tragico avvenimento non del tutto chiarito ancora oggi, probabilmente indotto da delusioni amorose, disillusioni politiche e dalla campagna della critica di partito promossa nei suoi confronti. Nella sua lettera di commiato il poeta aveva chiesto di non incolpare nessuno e di non fare pettegolezzi, domandando perdono ai familiari e ai compagni. Oggi appunto vorrei introdurlo con una poesia del 1916 che si intitola All'amato me stesso, in cui emerge l'impossibilità di ogni soluzione. Non c'è posto per il poeta in nessun luogo. Ci saranno per lui solo possibilità iperboliche e realizzabili. Sarà troppo scomodo in ogni dove. 4. Pesanti come un colpo. A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Ma uno come me dove potrà ficcarsi? Dove mi si è apprestata una tana? Se io fossi piccolo come il grande oceano, mi leverei sulla punta dei piedi delle onde con l'alta marea, accarezzando la luna. Dove trovare un'amata uguale a me? Angusto sarebbe il cielo per contenerla. Oh, se io fossi povero come un miliardario, che cos'è il denaro per l'anima? Un ladro insaziabile si annida in essa, all'orda sfrenata di tutti i miei desideri. Non basta l'oro di tutte le Californie. Se io fossi balbuziente come Dante o Petrarca, accendere l'anima per una sola, ordinarle coi versi, struggersi in cenere, e le parole e il mio amore sarebbero un arco di trionfo, pomposamente senza lasciar traccia vi passerebbero sotto le amanti di tutti i secoli. Oh, se io fossi silenzioso, umiltuono, gemerei stringendo con un brivido l'intrepido eremo della terra. Seguiterò a squarciagola con la mia voce immensa. Le comete torceranno le braccia fiammeggianti, gettandosi a capofitto dalla malinconia. Coi raggi degli occhi rosicchierei le notti, se io fossi appannato come il sole. Che bisogno io d'abbeverare col mio splendore il grembo dimagrato della terra? Passerò trascinando il mio enorme amore, in quale notte delirante e malaticcia. Da quale Golia fui concepito, così grande e così inutile? Wow. Simba. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Ottimo, allora. Che simpatia. Senti, che... Questa è la carica. Questa è la carica. Prima della super carica che ci dà il nostro fenomenale Grippo. Ok. Sì, dai. Ci siamo, che dici? Eccolo, è pronto, sta preparando. Sì, dai, è macchinosa la questione. Eccomi, eccomi, sì, eccomi, sì, ma la riuscita è sicura. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Butiaml. Allora oggi vi vado a presentare una canzone di un gruppo molto importante, almeno per me, ma anche per il mondo, diciamo, lo è stato, lo è. E si chiamano Fairport Convention, sono un gruppo scottish. Ma quello che ti ho chiesto... Yeah, man, no problem. I got it. And so I'm going to play the Hexhamshire Lass. This is the title of the song. Grazie. Amazing. Solo grazie. But I need a little help from my friends from Radio Wombat. Okay. So at the beginning you have to clap your hands in a way that I'm going to explain. Okay? Okay. Explain. Yeah. Later whiskey for everybody. Ready? Okay. Yeah. Okay. Come on. The rhythm is like this. Away with the buff and the blue, and away with the cap and the feather. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Oh, with a sadie sack and over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Her father loves so well, her mother loves so dear. I love her better than the both, but man, I can't get nearer. Oh, with a sadie sack and over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. If only I could be lying there aside her, while I must my dear, my arms could be the night. Oh, to say the second over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Her skin is like a silk, and her hair is like the silver. Her breasts are deep and cool, they won't when I get near her. Oh, to say the second over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. How this love of mine, how this love I'm weary. Sleep I can't get numb, then thinking of me dairy. Oh, with a sadie second over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Hey! Day do ba do day do do do do ba day do do do do ba da da da da da da ba day do ba do. Away with the peasant shield, and away with the cap and the feather. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Oh, with a sadie sack and over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Away with the bath and the blue, and away with the cap and the feather. I want to see my lass that sleeps in Hexhamshire. Oh, with a sadie sack and over the moss and the mire. I want to see my lass who lives in Hexhamshire. Oh. Yeah! Scotland! Alright, guys! Now whiskey for everybody! Another one! Play another one song! Another one song, my friend! Like, like this. As I was going over the far Fancara Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol, then I produced my rapier. Say stand and deliver, for I am a overseer. My sharing, give it to you, give it that. One for the daddy o, one for the daddy o, a whiskey in the jar. Well, I counted out this money, and it made a pretty penny. I put it in my pocket and I take it on the journey. She said and she swore that she never will deceive me. The devil take the woman for it never can be easy. Measuring ever do ever die. One for the daddy o, one for the daddy o, a whiskey in the jar. Finally, but we got the view. Bravo! Now, anyone can have me. It's my brother in the army. If I can find a station down in Corcoran, Killarney. And if you'll go with me, we go roving near Kilkenny. I swear it did me better than my darling Spody Jenny. Measuring, never do, never die. But for all the bad you, but for all the bad you, there's whiskey in the jar. Volano sgabelli. Irish moment here in Radio Wombat. Irish Scottish fucking moment. Grazie, Grippo. Great Britain. Grazie mille. No, no. No, we're talking about Scotland. Scotland, please. Come gli inglesi e gli scozzesi. Bravo. Come gli scozzesi e gli irlandesi. Che momento gioioso. Come gli scozzesi e altri scozzesi. Basta, via. Ottimo. Ciao. Ciao, grazie Grippo, mille. Grazie. Senti. Sento. Ci manca, mi sa, un'ultima rubrica all'incirca, poi andiamo a mangiare. Sì. Che dici? No, ma io volevo dire, volevo un aggiornamento dall'altro regista sul grande torneo di calcio dal basso. La squadra che Fuoco alle Polveri sostiene penso che sia miseramente uscita. L'Atletico del Grado? Sì, sì. Ma con onore. Mentre che a Firenze in piazza Santa Croce invece succedeva una bella bagarre in campo tra bianchi e azzurri. Tra bianchi e azzurri, sì. Calcio partita storico. Sospesa per perché l'arbitro è stato acchiappato. Mi sa finalmente da qualche azzurro. Sì, e perché due erano stati espulsi e non volevano però uscire. E uscire, quindi non solo hanno sospeso la partita, ma hanno deciso di far entrare 40 poliziotti in assetto antisommossa nell'arena di Santa Croce, dando uno spettacolo a mio parere non grandioso. Nel senso, sospendete la partita, chiudete tutto, ma far entrare la polizia davanti a non so, non mi è piaciuto. Non è chiappa all'arbitro, Cioè, basta, mandi qualcuno, acchiappa l'arbitro, lo portano all'ospedale, perché andava all'ospedale, mi sa, di corsa, perché pigliava uno scoppio da un calciante azzurro, non lo augurerei a nessuno. E però, non lo so, non è stata una bella scena vedere 40 appunto poliziotti spadroneggiare. Cosa ne hanno pensato? Infatti Nardellino si è un po' arrabbiato. Si sono arrabbiati un po' tutti, perché effettivamente... niente, dai, se è interrotta una partita e dovrebbe essere anche violenta, nel senso fa parte del suo essere. Niente, l'arbitro ha preso uno stonfo e ci sta alla fine di interrompere, non so, mi viene da ridere. È un po' un sogno di tutti chi ha giocato. Vabbè, niente. Sorvoliamo al degrado. E infatti, mentre che in Santa Croce succedeva il panico al Dazzi Stadium, invece volavano i calci dal basso, che invece manifestazione gioiosa e di spessore, in cui mi sa la finale, qualcuno sa quando... Sì, c'ero... No, invece sì, no, Topino, tu parli senza microfono. Sì, non ti senti perché non hai le cuffie, guarda, ecco, è quella sento, la cosa. No, volevo dire che ieri ero c'ero e purtroppo abbiamo perso per poco, okay. Però sono stati tutti bravissimi. Certamente. Quindi il 24 ci sarà la finale. Noi non ci saremo, però... Noi, te, io. In finale c'è sicuramente il Radio Degrado, giusto. Noi come Degrado Atletico. Giusto, scusa. Atletico Degrado non sì, ci non sarà ci saremo, perché è uscito. Però ci saranno... Ma perché te giochi nell'Atletico Degrado? No, io no, ma ero... È tifoseria, Guido. Tifoso. Come si dice? Sostenevo i... di gente. Puoi fare una domanda? Fa il microfono. Ma siamo sicuri che non erano i quarti questi? Erano i quarti, ma è stata giocata anche la semifinale. È stata giocata attenzione. Anche la semifinale. E quindi la finale sarà Frammenti Unido, questo lo so di sicuro, la squadra di Frammenti e Trame. Oh. Sì, e quindi a questo punto io la tifo automaticamente. Frammenti e Trame è veramente un pezzo di cuore. L'altro Atletico Rebelde, qualcosa di Rebelde. Sì, non ricordo. Che non mi ricordo, non so chi siano. Noi tifiamo Frammenti e Trame, perché è un luogo dove siamo cresciuti. Tra l'altro io la settimana scorsa non c'ero, però è Frammenti e Trame è il luogo a cui ho sempre collegato in modo automatico Lorenzo Bargellini, e già dove prima di vederlo in piazza nelle occupazioni lo vedevo sempre a Frammenti e Trame. Ma tra l'altro ieri c'è stato un minuto di silenzio anche prima di iniziare a giocare, proprio per ricordarlo. Certo. Detto questo, appunto, finale il 24. Il mio sogno sarebbe, lo dico apertamente, fare una radio cronaca da Radio Wombat. Sogno condiviso. Direi. Sogno condiviso da tanti. Vedremo se riusciremo sarà a possibile. Fare uno streaming. Sarebbe bello. E bella. Detto questo, avete già sentito la voce del nostro voce. Briccobaldo la Noccia. Ciao, DN. Bricco. Buonasera. Ciao, caro. Salutiamo Nicco che se ne va dallo studio. Wilson. Ciao. Wilson. Si salutiamo chiama Wilson oggi. Che se ne va dallo studio. Come on, ciao Wilson. Attenzione. Come on. Senti lì. Come on. Questo è un ore. Sì, questo è fondo. Antifa. Unica. Sbagliato. Come on. Nuova sigla di impastito sbirito. Guarda, è la sigla più bella che puoi avere. Cucina antifascista. Beh. E a proposito di Unica Antifa, parliamo antifa, di Antifa, parliamo di cosa parliamo? Cibo. Cibo. No, in verità sì, ah, no. Diciamo la rubrica è del cibo, però questa volta viriamo su una direzione alcolica. Alcolica. Liquori oggi. Ma indocino sempre. Indocino, signori, veramente. Perché sei rimasto a metà. Siamo rimasti a metà, cioè io avevo dato un input per arrivare preparati alla puntata di oggi. In verità la puntata di lunedì prossimo, però siccome mi conosco, ci conosco anch'io, faccio sempre ritardo nell'assemblare tutte le cose, quindi io parto prima e quindi già da oggi vi dico che è tempo di nocino. It's time to nocins. Attenzione, perché il nocino è una cosa che, cioè, bisogna essere sicuri di farlo, perché è una cosa che richiede molta pazienza, molta attesa. Devi fare poco, e di fatto c'è poco da fare, però c'è da attenderlo, c'è da aspettarlo, va bene? E quindi lo fai, diciamo, da un anno all'altro, da un anno per l'anno dopo. Quindi se l'anno dopo sei poco convinto, va bene, sei poco... Non farlo. No, non lo fai, ma ti finisce. Poi a un certo punto finisce e stai un anno senza, c'è un anno di buco. Quindi attenzione, è una cosa che richiede una certa predisposizione mentale. Ma quindi uno ne fa un botto così gli dura. Ne fai un botto e così ne bevi un botto. Cioè, no, allora, giusto, io come faccio? Io ne... No, non tu, te ne bevi di più e basta. La soluzione è questa, vabbè. Esatto. No, cioè, c'è un grosso limite. Ve lo dico subito così siete preparati. L'alcol costa una fiammata. Non è colpa mia, non è colpa nostra. Fosse per Radio Wombat probabilmente sarebbe così, quasi sarebbe libero. Tutto gratis. Sarebbe tutto gratis. Però l'alcol è effettivamente costoso. Quindi io quando ne faccio una quantità che, diciamo, possa essere soddisfacente senza esagerare. Cerco sempre di lasciare delle riserve speciali. Ecco, io faccio per esempio piccole bottigliette così da seminare, esatto, scordi dove hai nascosto. Poi c'è tra 80 anni, quando saremo vecchi wombattari, potremo tirare fuori il nocino 2017. Aspettavo. Grande riserva. Allora, comunque, molto semplice. Molto semplice. Le noci abbiamo detto che le raccogliamo in teoria il 24 giugno per San Giovanni, però ragazzi, un giorno più, un giorno meno, non sarà grazie al santo. È all'incirca, diciamo, col santo loro vanno a individuare il momento in cui all'incirca sono pronte le noci per fare questa cosa, che sono acerbe, ripetiamo di nuovo, sono acerbe, cioè solo il mallo, sono verdi durissime, non le mangiate perché a parte, insomma, non ce la fa, accorgete da non ce la fa, fanno schifo. Comunque, voi dovete avere una. Io utilizzo, per esempio, di solito faccio tre dosi di nocino, va bene? Quindi prendo una damigiana o una grossa bottiglia, meglio se con il collo largo, perché potete infilarci meglio le noci. Per una dose ci va ogni litro di alcol, un litro di alcol con 33 noci, 33 malli, va bene? Dopodiché dobbiamo aggiungere l'acqua, va bene? Che sono circa 400. Il regista, scusami, che ha una domanda in Canada. 33 come? 33 noci. Gli anni di Jesus? 33 come Jesus. Come tante cose, sì. Quando sarà la puntata numero 33 ricordati, certo, che sarà 33 come i malli. Sarà 33 come i malli per un 33 come i malli per una dose per di nocina. Per un litro di nocina. Per un litro di nocina. Esattamente. Imparate anche una parola, mallo. Mallo. Bella, molto bella, mallo. Molto bella. Va bene, allora i malli, naturalmente queste noci sono dure, voi dovete tagliarle, tagliatele a seconda della bocca, anche della damigiana. Io per esempio le taglio in quattro, va bene, le taglio a metà e poi di nuovo a metà. Attenzione ragazzi, attentissimi. Non le taglia proprio bene. Cioè, l'anno scorso c'è stato un incidente di percorso, era un nocino speziato. Diciamo, era un nocino un po' sì, esatto, special, c'è stato un ingrediente... che mi è costato 7 funti su un dito. Red nocino. Sì. Dovete stare attenti. Sì, dovete stare molto attenti. Coltelli tagliano. I coltelli tagliano, i malli sono duri. Quindi, cioè, dateci coi piedi di piombo. Sangue nocino sanguinario. Sangue. Va bene, comunque, via. No. Allora, si è detto un litro di alcol, 33 noci. Poi ci vogliono 400 di acqua. 400 ml di acqua. ml di acqua per un litro. 750 grammi di zucchero, una stecca di cannella, un pezzetto di cannella, una stecca di cannella, mezzo limone, mettete solo la scorza, sì, e 7 chiodi di garofano. Pensate. Bene, quindi questo qua, io faccio 3 dosi, moltiplico tutto per 3, però attenzione, perché come nei liquori che vengono fatti per infusione, la parte acquosa, quindi acqua e zucchero, vengono messi successivamente. Quindi voi metterete in infusione i malli con le spezie nell'alcol per circa 3 settimane. Una volta passate le 3 settimane, dovete girare tutti i giorni, mantenetelo in un posto abbastanza fresco, tutti i giorni gli date una sciaguattata. Poi, dopo queste 3 settimane, aggiungete l'acqua e lo zucchero. Un altro mese, girando, ogni giorno gli date una girata, e a quel punto potete filtrarlo. Io sono un cane, lo filtro con un colino, però in verità non andrebbe fatto, perché rimane un po' di la sporcizia. Sporcizia non è, però, nel senso, è un parte delle spezie. Rimangono, quindi altrimenti voi prendete un canovaccio di cotone, lo mettete in un imbuto, e poi piano piano fate come ci facevano notare, al buio va messo... Non necessariamente. Tipo l'idrovia, va messa buio. Sì, no, non è importante. Non è importante. Bene, okay. E appunto la pazienza dovete averla, perché se la bevete subito ancora troppi vapori alcolici. Quindi secondo me fate conto che se si fa il 20, fine giugno, diciamo che inizia a essere buono ad anno nuovo, ecco, da gennaio. Okay. Per questo è importante avere quello dell'anno prima, capisci? Cioè, una volta che parti, entri nel giro. E una volta che parti, entri nel giro, sì, in teoria non ti fermi più. In teoria non ti fermi più. Però, bisogna vedere. Cucurucucu. Molto buono. A posto? A posto, signori. Magari ogni tanto ricordaci questa cosa, tipo ogni tanto dice sciaguattate. Sciaguattate, ragazzi, sciaguattate. Assolutamente. Oh, mi raccomando, sciaguattate. Grazie, Lillo. Ciao, ragazzi. Buonasera. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela qua. Perché sono malato, tutti mi tormentano, è perché sono sbagliato, tutti ne approfittano. Non posso lavorare, perché ho picchiato la testa, non sono più normale, non sono capace di intendere e volere. Ma se lei chiamerà, andatevela. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Rieccoci qua. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Spottini bellissimo. Continuano perché sono delle chicche. Sì. E perché non abbiamo recitazione oggi? E perché anche perché non abbiamo recitazione? Dissimula. È una scelta. È una scelta pensata, politica proprio. Di redazione. Allora, dobbiamo dire un paio di cose ancora. Esattamente. Vogliamo più che altro perché dobbiamo. No. Allora, ci ricolleghiamo a quanto parlavamo prima dell'Acme meeting. Okay. Delle grandi opere dall'alto e la lotta territoriale. Sì. Che insomma di la gente che vive il territorio contro queste grandi opere imposte. Ricollegandoci a ciò che è avvenuto sabato 10 giugno. Al Polo Scientifico di Sesto, cioè il grande concerto contro inceneritore e aeroporto dove sì. Noi di Radio Wombat c'eravamo, organizzato dalle mamme non inceneritore, dal collettivo di scienze sì. E appunto dai comitati che sul territorio lavorano contro sì. Questi ecomostri, i vari comitati, poi anche i campi sì. Tutto. E niente, ci ricolleghiamo insomma a quella giornata. Sì, anche Bob Rondelli che abbiamo appena sentito con l'ottavo padiglione, ma che ha partecipato in una forma strepitosa. Ha fatto un grande show insieme ai Fantasia Pure Italiana, anche loro di fuori veramente. Sì, è stata una giornata pazza. Ma ci hanno sollazzato al sì, quanto. Sì, è stata una bella serata. E sì, noi di Radio Wombat eravamo lì e niente, adesso vi mandiamo, poi tra qualche secondo mandiamo una canzone che i nostri amici di Quarto Potere, abbiamo qui il quinto potere, Lapo. Che è Lapo Potere. Ciao Lapo. E, tra l'altro era un'informazione allargata, c'era anche il trombone. E tra l'altro in una forma strepitosa, li ho trovati. La seconda giovinezza di Quarto Potere. Sì, sì, cioè, l'abbiamo definita anche noi. È in corso la seconda giovinezza, cioè una nuova primavera. Cioè, esatto, cioè. 25 anni di carriera rivitalizzano, perché sì, 25 sì, anni sì. Hanno fatto ora la festa per i 25 anni di Falchi, e sono tanti. E hanno scritto una canzone per le mamme. E per questa giornata, cioè non proprio per, cioè in generale per lasciarla contro l'inceneritore merda. E, dal titolo Smoke on the Piano. Dal titolo Smoke on the Piano. Esatto. Ce la sentiamo? Dopo e poi vi salutiamo. Sì, facciamo no, poi così. Dobbiamo da dire un'ultima cosa. Poi facciamo l'ultima cosa. Intanto dai. Mandiamo questa. Guardatevi anche il video. Gustatevela. Sì, cioè, ascoltatela ora, poi riguardate il video. Wombat. Thank you. inquinate l'aria, ci inquinate l'aria. Oh, che strano tipo di progresso. Notate le nuove sonorità del quarto potere, questa seconda giovinezza, le trombe, i fiati, gustate, gustate, gustate. E visite ad occhio, voi speculatori. Che spenge? E visite ad occhio, dice, affumigatori. Ball in the sky, smoke on the piano. Oi mena, oi mena, fumo. Oi mena. Oi mena, che smoke. Oi mena. Qui nel video c'è Vinicio con tutte le mamme non inceneritori in una marcia, quindi o in meno, o in meno, si capisce, no? Quando si fa qua, quando dice velivoli in the sky, che succede? Succede che ti volano gli aerei, si vede l'IKEA, tipo gli aerei che ti volano da quelli, o che bello, vabbè, sentite qua, la chitarra di Gastone Podere. Evviva! Viva il quarto potere. Bellissimo, bellissimo. E live, ragazzi, è stato bellissimo. Sono davvero momenti in particolare. Sì, sì. Ci siamo divertiti. E il, quindi questo è successo, si è detto, sabato scorso, sabato 10, al Polo Scientifico di Sesto. Sì. Tra l'altro direttamente interessato anche dalla questione dell'aeroporto, perché se dall'allargamento della pista dell'aeroporto, quindi la costruzione della terza pista, plausibilmente il polo scientifico da non tanto costruito, non so in che anno è stato ultimato, ma potrebbe rischiare di essere smantellato, nel senso che le vibrazioni che potrebbero arrivare dal potenziamento di quell'aeroporto danneggerebbero e soprattutto inquinerebbero la bontà degli esperimenti lì effettuati all'interno di, insomma, esperimenti acustici, esperimenti scientifici in generale, insomma. Quindi sono anche direttamente interessati in ambito di ricerca. Sì, sì. Cioè, questa cosa poi la devono, in realtà, devono ancora capire. Sì. Ho parlato con ragazzi, okay, che sono lì, quindi. Ok. Vabbè, però comunque occhio, non è certo l'unica questione. No, però a me non sembra una questione da poco, anche se soltanto ci fosse il rischio prima di farlo, anche perché il posto scientifico è costato. No, penso, esatto, c'è la lungimiranza, di milioni di euro, lungimiranza e non mi sembra un brutto posto il polo scientifico, cioè nel senso, è nuovo, funziona, cioè, sì, perché... sì, appunto. Vabbè, è un posto anche a livello europeo molto importante, quindi insomma non da poco. A proposito di inquinamento e sprechi, grandi opere e tutto questo di cui stiamo parlando, manifestazione il 17 giugno, quindi sabato, sì, direi, se è domenica 18, sì, il 17 è sabato. Ore 16:30, piazza Stazione. Sì. A partenza. Vi leggo un attimo il titolo del volantino. Dai, così per capire. Basta sprechi, no TAV, no tunnel, no Foster, grandi opere, punto interrogativo. La risposta è no, tendenzialmente. Casa, reddito e dignità per tutti. Nel senso, si vengono contestati gli sprechi, quali possono essere i tunnel della TAV, la stazione Foster a Firenze e le... appunto l'inceneritore e l'aeroporto e i soldi che vengono impiegati in queste grandi opere inutili e dannose, che vengano reimpiegati e utilizzati per i bisogni sociali. Quindi è chiamata una manifestazione su questi temi, chi non va all'ACC meeting vada in piazza Stazione. Esattamente. Ora, noi tendenzialmente facciamo festa. Sì, il, basta. Ci sentiamo lunedì prossimo. Sentiamo, direi, come tutti i lunedì per la 29esima, sì. Ci avviciniamo ai 30. Ci avviciniamo ai 30. Ai ai ai. Ora saluterei anche chi non c'è, il nostro regista. Il nostro regista, che io lo immagino sulle rive del fiume a fare questa canzone qua. Okay. Perché cioè, è stato, cioè, veramente la prima cosa che fa quando prende la chitarra tutte le volte. Quindi questa la dedichiamo al nostro regista. Al nostro regista, ci salutiamo. Viva Ciao Radio JP. Wombat. Ciao carissimo. Yeah. È il tuco. Ciao Tuco. Ciao a tutti. That woman will take you. That woman will break you. That woman will make you something you never seen. That woman got claws. That woman's got laws. Now look out, man, you're gonna lose your mind. I had a friend, his name was Frank. He walked on the water line, Lordy, he sang. We used to go stag, now he's got a hag. It looks like Frank has got a brand new bag. That woman will take you. That woman will break you. That woman will make you something you never seen. That woman got claws, that woman's got laws. Now look out, Frank, you're gonna lose your mind. What happened to Frank can happen to you. Just find you a woman and watch what she'll do. That woman will take you, that woman gonna break you. Well, look out, man, you're gonna lose. You're gonna lose your mind. Frog on the polveri. Go how to Paul Berry. Radio Vomma. Radio Vomma. Può Homer Simpson essere un comunista? Suo padre ha parlato a suo nome. Il mio Homer non è comunista. Sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar.